mercoledì 30 maggio le aperture e tutte le prime pagine dei giornali anche all'interno sono dedicate alla tragedia dell'Emilia colpita nuovamente dal terremoto. I titoli intanto: Il Sole 24 Ore, colpita il cuore l'Emilia laboriosa. Per il Corriere della Sera, scosse infinite, paura e morte in fabbrica. Per Repubblica, Emilia, il terremoto infinito. La Stampa, terremoto, strage di operai. Per Libero, Emilia devastata, fuori i soldi e i colpevoli. Il Messaggero, nuovo terremoto, sconvolge l'Emilia. Per il Fatto Quotidiano, schiacciati dalle fabbriche. L'Unità, ferita d'Italia. Vedete, sono tutti su questo il titolo. L'unico giornale dei quotidiani nazionali che non apre sul terremoto ma sul calcio è il giornale Monti ci toglie il calcio, proposta shock. Ma vedremo ovviamente le tante pagine dedicate a questo. Io voglio subito andare a proporre qualche articolo. Il primo è quello, un tema che seguiamo sempre con questo termine orribile, spending review, la revisione della spesa, visto che siamo in Italia, ma i giornali la definiscono così per farci sentire più in Europa. Allora, come sapete, ci sono le scadenze. Come sapete, dovete immaginare Giarda e il commissario Bondi con i forbicioni già pronti sulla scrivania. Ora Giarda, il ministro Giarda, ha scritto ai colleghi ministri. Giarda ai ministeri, niente ritardi. Così Marco Rogare, a pagina 14 del Sole 24 Ore, ha preso carta e penna, Giarda ha scritto: caro collega ai ministri, ti invito a indicare entro il 31 maggio le ipotesi di contenimento sui programmi che rientrano nella sfera di competenza della tua amministrazione. Una sollecitazione che suona come un avvertimento per stroncare sul nascere tentativi di melina per evitare i tagli. Giusto per usare un termine calcistico, melina, no? Quando si perde tempo, si prende tempo, si fa finta di non sentire. E allora, per evitare tutto questo, Giarda ha fatto sapere che entro il 31 maggio, che poi è domani, i ministri devono far sapere che cosa proporrebbero di tagliare nei loro ministeri, altrimenti agirà d'imperio il Consiglio dei Ministri. Staremo a vedere. Giarda ai ministeri, niente ritardi. Entro il 31 maggio i tagli per quest'anno e anche per il biennio 2013-2015. Cari ministri, tra l'altro sul tema spending review vi voglio segnalare un articolo di Italia Oggi, a pagina 6 lo trovate. Il provvedimento sulla spending review prevede alcuni emendamenti al Senato, sono stati proposti dai parlamentari. Uno di questi è del senatore del Popolo della Libertà Pastore, che prevede di eliminare le feste. In Italia si festeggia troppo, troppe feste, troppi ponti, scarsa produttività, produttività che si riduce. Eccolo qui, PDL, via la festa della liberazione. Il ragionamento, racconta Alessandra Ricciardi a pagina 6 di Italia Oggi, è lo stesso. Troppe feste, i ponti fanno male alla produttività del sistema, meglio eliminarle accorpandole alla domenica. Ci aveva già provato il PDL con il 25 aprile, con il 2 giugno, con il 1 maggio, ai tempi della manovra correttiva dei conti pubblici, ci si riprova oggi con un emendamento alla spending review. La proposta di modifica appunto depositata al Senato salva solo la festa del 2 giugno e assegna al governo il compito di avviare con la Santa Sede la revisione degli accordi conclusi per le festività cattoliche. Senatore Pastore vuole eliminare le feste, via il 25 aprile, via il 1 maggio, cioè accorparle alla domenica successiva, insomma, ma non renderle più giornate di festa. Voglio andare invece sulla polemica che ha coinvolto Christine Lagarde, che è il numero uno del Fondo Monetario Internazionale, quella che ha sostituito Dominique Strauss-Kahn, travolto dagli scandali sessuali. Allora, flashback. Qualche giorno fa Christine Lagarde ha tuonato in un'intervista al Guardian britannico nei confronti dei greci. Ha detto, non proprio con queste parole: cari greci, cominciate a smetterla di essere un popolo di evasori. Cominciate a pagare le tasse per tutti, tutti e per tutto il paese. Insomma, aiutatevi. Allora, Atene si è sentita ferita, accuse di essere stati additati a popolo di evasori, appunto. Atene furiosa con la burocrate del Fondo Monetario. Anche perché poi hanno scoperto una cosa, che la Christine Lagarde non paga le tasse. Ma come? Siamo un po' alle solite. Attenzione, è tutto regolare, perché Christine Lagarde, essendo un funzionario internazionale, incaricata di missione diplomatica internazionale, in base alla Convenzione di Vienna, firmata nel 1961 da 187 nazioni, è un agente diplomatico, per questo esente da ogni imposta e tassa personale o reale, nazionale, regionale o comunale. Però certo che farsi dare dell'evasore o del popolo di evasori da una che il problema delle tasse non ce l'ha, e beh, è come dire... è facile, no, puntare il dito da quella sedendo su quella sede del Fondo Monetario Internazionale. Allora guardate qui il caso Lagarde sul giornale a pagina 19. Atene furiosa con la burocrate esentasse. La dirigente del Fondo Monetario aveva strigliato i greci: paghino le imposte, ma ora si scopre che lei non versa un euro. E così Libero: Lagarde non paga le tasse, ma fa la morale ai greci. Anche il Foglio fa un commento, uno dei tre commenti nella pagina 3: la vita esentasse dei super burocrati e i furbetti di Bretton Woods. I conti in tasca alla Lagarde. Nemmeno la precisazione su Facebook ha risparmiato un po' di conti in tasca da parte dei blogger di mezzo mondo. In quanto funzionario di un'istituzione internazionale, Christine Lagarde non deve pagare un centesimo di tasse sullo stipendio. E che stipendio? Prende $467.940 all'anno, più 83.760 euro di benefit, soggetti per contratto a un aumento annuale per i 5 anni del mandato. È più di quanto guadagna Obama, che però le tasse le paga ovviamente negli Stati Uniti. Niente di personale, dunque l'ex ministro delle finanze francese appunto è esentata dalle tasse per questa convenzione di Vienna, una convenzione voluta. Quando fu creato il Fondo Monetario Internazionale alla conferenza di Bretton Woods nel 1944, erano stati delegati americani a proporre il vantaggioso status per le buste paga dei burocrati senza frontiere. Allora l'economista Keynes definì mostruosa questa proposta americana, non lo ascoltarono e il Foglio dice che sia il caso di ripensarci. Togliamo o modifichiamo questa convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche per cui anche il diplomatico paga le tasse? Il funzionario sotto questo cappello, no, giusto così almeno può criticare più liberamente, fare la morale ai popoli tipo alla Grecia, però almeno dopo aver fatto un giro al fisco e all'Agenzia delle Entrate internazionale anche lei, no? Noi intanto ci fermiamo e ripartiamo dal terremoto tra 5 minuti. L'azienda di cui ti occupi è grande o piccola? Non importa, importa se tu sei grande o piccolo. Se sei grande, fai in modo che le persone possano lavorare bene. Mettile in grado di dare il loro meglio. Libera l'energia delle persone. Inaz sa come farlo. Inaz. Human Energy. Le 7:35 minuti, allora un'Emilia soprattutto squassata, sconvolta, le nuove scosse, nuove vittime, si contano i morti, 16, ma ci sono molti sfollati, ci sono feriti. C'è un sistema produttivo che è andato letteralmente a sbriciolarsi. Ci sono tanti racconti ovviamente degli inviati. Io vi sottopongo soprattutto un articolo, Marco Imarisio, a pagina 3 del Corriere della Sera. È a Cavezzo l'unità di misura del terremoto di ieri. La sua devastazione dimostra come sia riduttivo, magari vigliacco, ridurre questa tragedia a una faccenda di capannoni industriali crollati con il loro inevitabile tributo di vite umane. Il suo centro non esiste più, via Marconi, via Prima Maggio, le due arterie del paese sono un lungo elenco di edifici sventrati, sembra che siano esplosi. Il paese è diviso in tre compartimenti stagni, separati da barriere di detriti. L'unico gruppo di case rimasto intatto è quello del vecchio condominio dell'Ina Casa Edilizia Popolare, datata 1955. Tutti gli edifici costruiti di recente, invece, hanno subito danni. Il nuovo centro commerciale ricavato pochi anni fa dalla vecchia società operaia è crollato. Dalle macerie spuntano come una beffa le insegne del negozio di parrucchiere, della palestra. Piazza Matteotti, il cuore pulsante, è una quinta grottesca dove a ogni lato, intorno al monumento sormontato da un leone di marmo, corrisponde un palazzo crollato. Il condominio sulla sinistra, l'unico rimasto in piedi, ma la sua sommità ha un folle angolo acuto al centro, come se stesse per ripiegarsi su se stesso. Insomma, questo è l'inizio del racconto di Cavezzo, di Marco Imarisio, cronista Cavezzo che conta i palazzi sventrati e 4 vittime. Proprio lì però, come avete sentito nel giornale radio in serata, c'è stato quello che viene definito un miracolo, comunque un salvataggio miracoloso, viva, trovata viva tra le macerie una donna. E invece hanno perso la vita, e questo ha creato anche e genera molte polemiche, hanno perso la vita molti operai, ma anche un imprenditore, anche un ingegnere che era andato sul posto proprio su un capannone a Mirandola per verificarne la staticità. Sotto le macerie una strage di operai, così titola La Stampa, pagina 5, ma è il tema più ricorrente. Il Fatto Quotidiano, capannoni di carta, è una gara a chi risparmia sulla sicurezza, e su questo si è innestata anche una polemica. Anche il ministro Elsa Fornero ha detto: altrove non succede, non si doveva tornare a lavorare. Una polemica, come detto, a distanza tra il leader della CGIL Susanna Camusso, che ha accusato stabilimenti insicuri, e il presidente di Confindustria Squinzi, che ha risposto: in realtà gli esperti non avevano previsto, era un terremoto oltre il prevedibile e i capannoni non sono di carta velina. Tra l'altro vi voglio segnalare che Susanna Camusso, leader della CGIL, fa un intervento in prima pagina dell'Unità, il titolo è Una tragedia del lavoro. Scrive la Camusso: volti di lavoratrici, di lavoratori segnati dal pianto per i loro compagni di lavoro, una babele di lingue e provenienze, sono le immagini che rappresentano drammaticamente il terremoto di domenica 20 maggio e quello di ieri che ha devastato l'Emilia. Appare in tutta la sua crudezza quanto sia importante in termini di sicurezza la costruzione, la prevenzione antisismica anche per i luoghi di lavoro. Quelle immagini del lavoro prima vittima che hanno colpito devono tradursi nella scelta di misure concrete per accrescere la sicurezza e far ripartire il lavoro. Così Susanna Camusso in prima pagina dell'Unità. Ma certo, il tema, al di là di suscitare molte polemiche, per esempio il titolo del Manifesto di oggi è Uomini e no. Un secondo devastante terremoto mette in ginocchio l'Emilia, scosse a raffica, almeno 16 morti, migliaia di sfollati, crollano le chiese, i capannoni industriali, danni enormi al patrimonio artistico. C'è anche l'editoriale di Norma Rangieri in prima pagina dal titolo Macerie operaie. Ma certo, ci sono le testimonianze di chi dice: siamo stati costretti ad andare a lavorare, altrimenti perdevamo il lavoro. Al di là delle polemiche c'è anche, ve lo segnalo, una interessante pagina, pagina 7 del Corriere della Sera con Lorenzo Salvia, che parla appunto dei fabbricati, o meglio di prefabbricati, quanti sono e come sono fatti, pilastri e cerniere, perciò non reggono, sono showbox, li chiamano gli americani, scatole di scarpe, oltre alla morte, le macerie, le famiglie scaraventate nelle tende, stavolta il terremoto ha portato la paura dei capannoni. Tra l'altro Lorenzo Salvia intervista Bernardino Chiaia, professore di scienze delle costruzioni al Politecnico di Torino, che racconta come vengono costruiti. Sono edifici molto semplici, formati da pochi pilastri e travi, riescono a resistere a sollecitazioni verticali, mentre in caso di sollecitazioni orizzontali, come quelle provocate da un terremoto, possono venir giù come un castello di carte. E usare questa espressione ovviamente fa anche molto molto scalpore, castello di carte, usa proprio questa espressione. È molto amaro oggi il graffio di Iena a pagina 3 della Stampa: stavolta gli operai sono morti, e stavolta non è una metafora, ma è un intero sistema produttivo. Quella zona dell'Italia produce garantisce l'1% del PIL italiano. E allora è davvero colpisce molto leggere la sequenza di titoli che trovate da pagina 2 del Sole 24 Ore, perché ogni pagina è concentrata su un paese e ciò che è stato distrutto. Per esempio a pagina 3: Mirandola, biomedicale raso al suolo. Con l'imprenditore Mauro Mantovani, titolare di un'azienda, rimasto per ultimo nella fabbrica e per questo morto. A pagina 4, finale Emilia, crolla la ceramica. A pagina 5, a Medolla, si sgretola l'alimentare, cantine e macelle fermi nel distretto, ma nessuno si arrende. A Cavezzo, pagina 7, piegata la meccanica. A pagina 8, Carpi, il tessile ha chiuso i cancelli. Ovviamente ci sono anche le stime, anche su Repubblica, pagina 14, 1 miliardo i danni stimati, 20.000 casa, Roberto Mania racconta, non meno di 15.000 lavoratori in cassa integrazione, centinaia di piccole aziende chiuse, danni che rischiano di superare il 1 miliardo di euro, un'economia di qualità da quella del biomedicale, il basso modenese, a quella del parmigiano in ginocchio, costretta a ripensare il proprio futuro, a ridisegnare il proprio profilo. Insomma, le stime sono davvero tante. Oggi ci sarà la prima risposta del governo. Oh, tra l'altro c'è stato questo dibattito, io l'ho detto, sono stato duro su Twitter, ma siamo un popolo che spesso reagisce con una demagogia, un populismo a livelli esasperanti ormai, tipo la polemica sulla parata del 2 giugno. Si tratta tra l'altro di una spesa di poco meno di 3 milioni di euro, di questi milioni di euro credo il 90% sono già stati stanziati, quindi non, anche se si sospendesse la parata si fermerebbe, non si risparmierebbe granché, però è iniziato questo tantan prima su Twitter, poi il codazzo di politici che si è appunto accodato a dire eliminare il 2 giugno. La risposta, a mio modo di vedere, peggiore era quella all'italiana, lo facciamo, ma lo facciamo in maniera sobria, no? Come dire, vabbè, che vuol dire? Si sono lanciate anche le ironie, sfilano i soldati con i fucili, con il tappino rosso sulla punta. Lo facciamo in maniera sobria. In ogni caso, sobria sarà la parata del 2 giugno. C'è chi è arrivato a chiedere al sindaco di Milano Pisapia di rinunciare alla visita del Papa, che viene qui per il Forum Mondiale delle Famiglie, attese milioni di persone da tutto il mondo a Milano, una macchina organizzativa che è in piedi da mesi. Fermiamo la visita del Papa per risparmiare quei soldi già stanziati, ovviamente, da dare ai terremotati. Ecco, ditemi voi se un paese deve reagire a una tragedia con del qualunquismo di questo genere. Come reagisce invece il governo? Cari italiani, oggi non possiamo prevedere nulla, ma le previsioni da tutti i giornali è l'aumento della benzina. Tra le altre cose, l'aumento forse della tassa sui giochi è un'altra previsione, ma l'aumento dell'accise sulla benzina fino a 5 centesimi al litro è il massimale che può ritoccare il governo in questi casi, è una delle ipotesi più gettonate. Staremo a vedere se aumenterà ancora oggi la benzina. Anche la regione Emilia-Romagna potrebbe farlo in virtù appunto di questa catastrofe, di questa tragedia. C'è la possibilità di agire sull'accisa regionale ulteriore rispetto all'accisa nazionale della benzina. In ogni caso andiamo alle informazioni sul traffico e poi Monti e il calcio. Allora, oggi la Gazzetta dello Sport titola così, con caratteri perentori: fuori gioco col punto esclamativo. Il fuori gioco è rivolto al Premier Mario Monti, che l'avete sentito nel giornale radio, ha detto da ex appassionato di calcio, vedendo tutto quello che succede, gli scandali. Mi chiedo, non è una proposta, ma mi chiedo da cittadino italiano, ma certo lui è il Presidente del Consiglio, quando parla non può far finta di non essere, mi chiedo se non sia un bene una sospensione di 2-3 anni di questo gioco. Monti shock è il titolo che trovate più sul calcio. Il calcio andrebbe fermato, c'è un malcostume continuo, anche la stampa, Monti shock, il giornale, Monti shock, chiudere il calcio per 3 anni. Invece Libero è più duro e ironico in un certo senso, allo stesso tempo. La genialata di Mario Monti, scrive il vice direttore Franco Bechis. Genialata del prof, niente calcio per 3 anni, così si rinuncerebbe a 3 miliardi di tasse che il calcio garantisce. E poi due calcoli di Libero: 1.151.000 giocatori, di questi 14.000 rotti professionisti, poi 62.000 allenatori, 840 preparatori atletici, 2.900 medici, 2.685 operatori sanitari e ancora 35.000 tra arbitri e assistenti, migliaia di dipendenti delle società di calcio, quelli dei media che vivono in quel settore, Sky, Rai, Mediaset, giornali sportivi, le società di merchandising, insomma l'uomo della strada Monti. Sotto shock per qualche decina di presunti birbanti del calcio, non ha più brillante idea che provocare un guaio terribile. 2 milioni di disoccupati per 2 o 3 anni. Vabbè, qualcuno, i giocatori certo non sarebbero disoccupati e poi, come dire, avrebbero nelle loro cassaforti personali qualche ammortizzatore sociale, personale. Però, diciamo, potrebbero anche andare a giocare all'estero. Però il dato di fatto è questo, insomma, sembra stata più una sparata di una persona, sì, sconvolta da quello che si legge nel mondo del calcio, dove appunto ci sono questi scandali, ma sta di fatto che la proposta viene abbastanza bocciata, almeno trasversalmente, dai quotidiani. Sembra più una sparata che creerebbe più danno poi alla fin fine che altro. Certo, l'inchiesta non è che non proceda ogni giorno con il suo scandalo quotidiano. L'ultimo, quello di oggi, sono le 3 cose flash: che la procura vuole sentire Buffon, portiere della Juve, della Nazionale, per quella frase "a volte meglio 2 feriti che un morto", riferendosi al fatto che a volte conviene alle squadre fare un pareggio. Ci sono 2 partite che sono sospette per quel che riguarda invece l'allenatore Antonio Conte, l'allenatore della Juventus, mentre l'accusa più pesante è quella del Siena. Il presidente Mezza Roma è stato accusato, sempre dal pentito Filippo Carobbio, quello che aveva tirato in ballo anche a Conte, di avere venduto delle partite, cioè di aver detto ai propri giocatori tramite delle persone: perdete questa partita così io ci scommetto sopra sulla sconfitta. Chiese ai suoi di perdere. Questo è il titolo che troverete legato all'accusa al presidente del Siena Mezza Roma. Di accuse in accuse di diverso tipo, gravi anche queste, che coinvolgono l'ex presidente di una delle banche più importanti d'Italia, Banca Popolare di Milano, e la vicenda che riguarda l'ex presidente di BPM, appunto Massimo Ponzellini. Agli arresti domiciliari, tutti i particolari con Stefano Elli a prima pagina di Finanza e Mercati del Sole 24 Ore, pagina 29. Corruzione privata, uno dei reati di cui è accusato Massimo Ponzellini, arrestato insieme al braccio destro ombra Antonio Cannalire. Si tratta di una definizione tecnicamente poco ortodossa, perché l'articolo 2635 del Codice Civile, contestato a Ponzellini, di corruzione non parla esplicitamente, definisce l'infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità. L'accusa è quella di avere fornito tanti soldi, fino a 5,7 milioni di euro, di aver preso anche mazzette da 5,7 milioni di euro, di aver fatto favori a politici, favori a imprenditori, anche a un imprenditore, per esempio, attualmente latitante, molto chiacchierato, tale Francesco Corallo, che è a capo di una azienda che fa affari nel gioco d'azzardo. L'accusa è proprio quella, l'ipotesi di reato di associazione a delinquere finalizzata a corruzione e appropriazione indebita, leggo dal Corriere della Sera, dall'articolo di Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella. L'infedeltà patrimoniale a seguito di dazione o promessa di utilità per avere percepito soldi da Atlantis BP Plus in cambio di 148 milioni di finanziamenti in un biennio alla concessionaria dei giochi appartenente a Francesco Corallo, figlio di un condannato per reati di criminalità organizzata con catena di controllo che fa capo a società con sede nelle Antille olandesi. Una vicenda che tra l'altro coinvolge anche molti politici. Uno su questi, vi la ricordate la vicenda recente, quando ci furono delle prime indagini e ci fu un PC sequestrato e si presentò un deputato, Amedeo La Boccetta, deputato del Popolo della Libertà, si presentò di colpo durante una perquisizione alla Guardia di Finanza dicendo: fermi tutti, sono un parlamentare, ho le prerogative da parlamentare, quel computer che state sequestrando è mio e quindi me lo porto via, perché non avete diritto a perquisirlo, dovete fare una richiesta alla Camera. Il deputato e il computer distrutto con i segreti. Sempre Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella raccontano questa vicenda incredibile che già destò molto scalpore a pagina 29 del Corriere della Sera. Siede in Parlamento un deputato che, per sottrarre al procedimento penale materiale probatorio di rilievo sulla concessionaria Atlantis di Francesco Corallo, prima ha falsamente dichiarato di essere il proprietario di un computer che la Guardia di Finanza stava sequestrando. E poi, molto tempo dopo, ha spontaneamente consegnato alla Guardia di Finanza il computer, non prima di averne cancellato la memoria e tentato di camuffarne la reale titolarità. È la vicenda di Amedeo La Boccetta, documentata da un capitolo dell'ordinanza d'arresto emessa ieri per Corallo. I risultati della consulenza informatica sono sorprendenti. Il computer risulta manipolato con cancellazione di dati pregressi. Inoltre era intestato a PC Francesco, cioè Francesco Corallo. C'era una cartella utente denominata Francesco. Insomma, era di Corallo e non di La Boccetta. Invece è stato cancellato. In sostanza, il computer è stato manipolato e rinominato al fine di occultare l'effettiva proprietà del PM in capo a Francesco Corallo. Questa è l'accusa, che coinvolge anche un deputato italiano, ma ci sono tante intercettazioni, si tirano in ballo, il giornale tira in ballo anche Fini, ripropone la foto di quando Fini fu ritratto insieme a questo Francesco Corallo in una visita alle Antille, e insomma questa vicenda ne regalerà delle belle nei prossimi giorni. Ora c'è il giornale radio.